questa voce te seta indanottate, mentre da scrigno sfato due pedine, sotto scedate, si posta scedate, ma fa vedere che dorma sonne chi. Yeah.